il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige, a cura di Emanuele Cenghiaro. Oggi al quadrifoglio parliamo di fotovoltaico, una parola che è un po' un must in questo periodo per chi parla di e si interessa di sostenibilità ambientale. E vogliamo capire di cosa si sta parlando quando si parla di pannelli solari, termici e fotovoltaico, ma lo facciamo con un ospite particolare, Piero De Candia, responsabile energia di Lega Ambiente Padova. Perché Piero De Candia? Perché lui si occupa da anni di gruppi di acquisto nel settore appunto dell'energia. Benvenuto Piero. Grazie. Il fotovoltaico cos'è? È quella tecnologia che ci consente di utilizzare il sole per produrre energia elettrica nelle nostre case e allontanarci così dai consumi dei combustibili fossili come il carbone o il petrolio, che sono le principali cause dell'effetto serra. Ecco, quando parliamo di pannelli solari, ci sono sia solari termici sia fotovoltaici. Perché questa differenza? Allora, il solare fotovoltaico utilizza l'effetto fotoelettrico per produrre energia elettrica. Il pannello solare termico è molto semplice, utilizza il calore del sole per poter scaldare l'acqua calda sanitaria. Quindi sono due tecnologie diverse, però che possono essere entrambe o alternative l'una all'altra? Se sono vincolate dalla dimensione del tetto, però possono vivere assieme tranquillamente, anzi è auspicabile che convivano assieme. Ecco, queste tecnologie, appunto l'applicazione di questi pannelli è sempre più diffusa, ne vediamo molti in giro montati nelle case o sui tetti dei capannoni. Voi avete creato un gruppo, ancora una decina d'anni fa, un gruppo d'acquisto che ancora va avanti per promuovere un po' l'implementazione di queste tecnologie nelle case. Da cosa è nata questa esigenza del gruppo d'acquisto e un po' come funziona? Allora sì, il gruppo di acquisto non è sempre lo stesso, ma ce ne sono state varie edizioni. Come funziona e perché nasce? Nasce proprio dalla richiesta dei nostri soci e degli utenti dello sportello Energia che volevano mettersi assieme per ottenere dei prezzi concorrenziali con una qualità buona e con delle garanzie maggiori. Ci hanno chiesto quindi se riuscivamo ad organizzarli a fare una gara tra le aziende del territorio. Lo strumento principe del gruppo di acquisto è un capitolato tecnico che viene inviato a tutte le aziende del territorio. Quando le offerte sono pervenute al gruppo, a quel punto i cittadini, gli aderenti che fino a quel punto sono iscritti, si incontrano e scelgono l'offerta che più gli si addice. Quindi è un percorso estremamente partecipato. Grazie al fatto di essere in gruppo, si hanno vari vantaggi, tra cui un 15-20%, un 15% di sconto sul prezzo il mercato medio, e poi delle garanzie maggiori, come per esempio 10 anni di manutenzione inclusa nel prezzo. Ecco, poi magari nella seconda parte torniamo anche sulla questione di costi, di cos'è un impianto medio. Mi volevo ricordare anche che esistono ancora degli, chiamiamoli incentivi, delle detrazioni fiscali a livello statale che rendono inconvenienti questi tipi di interventi. Assolutamente sì, economicamente con la detrazione fiscale IRPEF del 50%, un impianto fotovoltaico oggi ha un tempo medio di rientro tra i 7 e gli 8 anni e poi questo in impianto va a produrre energia per 20-30 anni. Per ciò che riguarda l'area termico gode della detrazione fiscale del 65% in 10 anni, il tempo di il c'è rientro è anche questo tra gli 8 e i 9 anni. Ecco, sono tecnologie che poi si possono unire tra loro. So che ci sono delle pompe di calore che unite al fotovoltaico permettono di ottimizzare maggiormente le rese. Anche, vi occupate anche di questo? Sì, certo. La produzione dell'acqua calda sanitaria, specialmente dove attualmente viene fatta tramite boiler elettrico, è un meccanismo molto energivoro. Per ovviare a questo, c'è la tecnologia che è quella a pompa di calore. Cioè andiamo a scaldare l'acqua molto lentamente con un meccanismo simile a quello lì del frigorifero al contrario. Con il vecchio boiler avevamo un'efficienza del 70% circa, ora con un kilowatt elettrico utilizzando la pompa di calore riusciamo ad ottenere 3-4 kilowatt termici, quindi molto molto più di prima. Quindi con questo sistema ci si potrebbe staccare totalmente dalla rete gas, almeno per quanto riguarda il riscaldamento? Per l'acqua calda sanitaria esistono delle pompe di calore per il riscaldamento. Noi personalmente le consigliamo solo in caso di riscaldamenti a bassa temperatura, come quelli a pavimento, perché hanno la loro massima efficienza con delle temperature di mandata dell'impianto molto basse e non paragonabili a quelle dei termosifoni. Certamente. Ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di impianti fotovoltaici, in particolar modo di un gas, un gruppo di acquisto promosso dall'Agambiente di Padova per acquistare e installare pannelli termici e fotovoltaici. Ne stiamo parlando con il responsabile dello sportello energia di Legambiente, appunto Piero De Candia. Dicevamo prima un po' le varie tecnologie, adesso cerchiamo di capire anche i costi, o meglio, prima dei costi, le caratteristiche di un impianto medio, cioè per una famiglia che ha un appartamento o una piccola casa. Che tipo di impianto può pensare di installare? Allora, l'impianto medio, quando parliamo di fotovoltaico, si misura sui consumi medi delle famiglie. Una famiglia in media consuma all'incirca 3.000 kWh all'anno. Quindi per ottenere questa energia si dovrebbero installare circa 3 kW di picco, che corrispondono circa a 20 metri quadri di pannelli fotovoltaici, o con le taglie medie di pannelli oggi sono 12 pannelli, quindi c'è un'occupazione di 20 metri quadri sul cel tetto, e oggi con il gruppo di acquisto di Legambiente, fatto in collaborazione con il bacino Padova Sud, i 3 kW hanno un costo IVA con una sorpresa sotto i 5.000 euro. Pensiamo che nel 2007, quando abbiamo creato il primo gruppo di acquisto, con 5.000 euro non riuscivamo ad installare nemmeno un kilowatt. Quindi la diffusione della tecnologia ha aiutato molto anche l'abbassamento del costo. Quindi, ricapitolando, con meno di 5.000 euro, IVA compresa, che poi si recuperano con le detrazioni e con il risparmio che si ha nella bolletta, questo impianto di circa 20 metri quadri che fornisce energia elettrica per tutte le esigenze della famiglia, probabilmente. Sì, sì, esatto. Ovviamente si rimane collegati alla rete, perché l'impianto fotovoltaico produce energia quando c'è il sole, mentre quando quando è buio prelevo energia dalla rete. Attualmente, per capirsi, che utilizzano questo sistema sono circa 530.000 persone in Italia, quindi è un sistema ormai molto diffuso, ecco. Quindi 530.000 impianti in, sì, Italia. Esatto. Che quindi danno una percentuale anche di produzione di energia abbastanza sostanziosa. Ah beh, siamo che a luglio oltre l'11% dell'energia elettrica è stata prodotta da un impianto fotovoltaico, quindi abbastanza importante come apporto. E questa produzione di energia è in mano appunto a 530.000 persone, quindi c'è anche un discorso di democratizzazione della produzione dell'energia, quindi di diffusione nel territorio. Come fare, per chi fosse interessato, a mettersi in contatto con voi? Allora, può mettersi in contatto con noi scrivendo a sportello.energia.padova@gmail.com, oppure contattando la sede di Legambiente allo 049 856 1212. Ecco, immagino anche che ci sia un sito internet di Legambiente, se uno lo cerca lo trova e troverà anche appunto lo spazio dedicato all'energia. Grazie. Assolutamente, sì. Grazie a voi. Andiamo a chiudere la trasmissione con un paio di notizie. L'Osservatorio Socioeconomico Pesca e Acquacoltura di Veneto Agricoltura ha pubblicato un report su ittiturismo e pescaturismo nel Veneto. Per ittiturismo si intende ospitalità e ristorazione effettuata da imprenditori ittici, attività ancora abbastanza rara. Sono gli agriturismi del settore della pesca, in poche parole. Il pescaturismo è invece l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio a scopo turistico-ricreativo su natanti adibiti a pesca. Sono 35 finora le realtà venete iscritte a questa tipologia di turismo. Il report è scaricabile dal sito internet di Veneto Agricoltura e si occupa anche di analizzare i principali problemi del settore, dalla scarsa conoscenza alla scarsità di risorse, all'assenza di una vera strategia di valorizzazione del settore. Si svolge infine questa settimana a Verona, da giovedì 5 a domenica 8 novembre, la 117esima edizione di Fiera Cavalli, tradizionale evento dedicato al mondo del cavallo, inteso anche come sport e come turismo equestre. Sono attesi 3.000 cavalli di 60 razze e 750 aziende espositrici in quello che è a tutt'oggi il più importante evento nazionale del settore. Con questo abbiamo concluso la trasmissione anche per questa settimana. Vi diamo appuntamento alla prossima con il Quadrifoglio. Ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.